Ciao, ciao a tutti e tutte. Allora, siamo qua per presentare il nuovo lavoro di militanza grafica che si chiama Torri. Però prima di tutto ti volevo chiedere se vuoi un po' presentarti, presentare il tuo progetto artistico e raccontarci un po' come è nato. Check one, ok. Prova. Posso fare? È il cavo. Okay. Da cosa iniziare? Allora, la genesi è stata molto semplice, nel senso che quello che credevo o pensavo di poter saper mettere all'interno di una comunità, che è quella del movimento, l'ho messa nelle mani della collettività. Quindi sono partito da verso proprio questo aspetto collettivistico. Quindi inizialmente disegnavo cose per manifestazioni, stencil, roba varia, cioè mi mettevo in questo tipo di condizione. Successivamente ci sono stati dei fatti che hanno cambiato quello che poi era un progetto che in realtà doveva essere solo una collana grafica, è diventata una cosa molto più ampia, fatta di podcast, fumetti, militanza l'enigmistica, cioè è diventata una cosa molto a fisarmonica, si è aperta, perché ho pensato che la cosa migliore fosse cercare di conquistare, d'accordo, per tutto, per tutto e per tutti, sempre più terreni creativi. Io vengo dal mondo della musica, vengo dal mondo delle radio militanti, antagoniste, cioè prima di questo progetto, e lì mi trovai molto molto deluso dal mondo della musica in generale, perché probabilmente difficilmente è inquadrabile in una forma di lotta. Sta diventando tutto troppo molto complesso a mio avviso. Vedo festival antagonisti che portano davanti comunque degli artisti veramente indecenti, solo per una forma assolutamente monetaria. E questa cosa non mi andava più bene, non ce la facevo, mi sentivo assolutamente fuori luogo in quel momento, e allora mi sono distanziato e ho trovato altre forme artistiche. Ho fatto grafica nella mia vita, pittavo qualche muro, ho fatto quello che potevo, e se esisto, esisto perché esiste un movimento, non perché esisto io. Quindi grazie a Zam, grazie a che ci siamo conosciuti 5 anni fa, quando ero uno scemo, e lo sono ancora, però per me anche stare qui adesso a parlarvi del secondo fumetto per me è una cosa stupenda, emozionante, perché ci sono tante tante cose, lì c'è un mio manifesto, che è uno dei miei primi, che ho regalato ai raga, e quando sono diventato qua e l'ho rivisto ho fatto dannazione, ma quanto ero scemo e continuo a essere scemo. L'importante è cercare di condividere quello che si può fare, ecco, e questo è quello che faccio, e quindi grazie a tutto, a tutte e a tutti. Volevo chiederti di raccontarci un po' la scelta del passamontagna. Sì. Vabbè, poi quando avevamo parlato mi hai un po' raccontato, mi ha colpito molto il fatto che allo stesso tempo sia un po' un filtro, no? tra quello che è la tua persona e giustamente la tua vita privata e il progetto artistico, però allo stesso tempo, almeno nel fumetto, per esempio quest'ultimo fumetto, diventa, cioè tu col passamontagna è praticamente il personaggio protagonista del fumetto, no? Quindi in qualche modo, che poi sei tu, alla fine sei, cioè esatto, sei tu con il modo in cui parli, esatto. Eccetera, eccetera. E quindi è, secondo me, molto figo particolare che allo stesso tempo metti questo filtro, però metti anche tanto di te nella tua arte, nelle storie che racconti. Sì, in realtà il passamontagna nasce da una volontà di non, di non, di non seguire quelle che sono degli individualismi molto personali, quindi l'annullamento più alto del volto permette, secondo me, a livello almeno artistico, ma secondo me anche politico, a mio avviso, molto ZLN, molto zapatismo, cioè io sono molto affezionato a questi tipi di dinamiche, proprio per l'annullamento della personalità stessa, quindi in questo momento se una persona si mettesse lo stesso identico cazzamaglia, ma non per forza lo stesso, e si mettesse qua a parlare dicendo che militanza grafica, è la stessa cosa. Cioè probabilmente tre quarti delle persone crederebbero che è davvero l'autore del progetto, cioè non mi interessa essere la persona che sono, come sono nato biologicamente o nella mia vita, mi interessa essere soltanto un vettore di un imbuto di cose e di storie che sennò non verrebbero raccontate. E la mia vita privata è fatta di una cosa molto simpatica che racconto. Quando Rebecca mi ha chiamato per fare questo talk insieme, io stavo facendo la spesa e notoriamente Genova è una città poco fruibile a livello di andare a camminare a piedi, nel senso che ci sono un sacco di scale ed è una rottura di palle, ma brutale. E quindi immaginate fare la spesa, capito? C'è un carico di roba, alle 7:05 arriva una telefonata che era lei. E io proprio, Belin, che cazzo, ma che coglione. Gli ho risposto malissimo all'inizio, cioè tipo, male, tipo, sì, pronto? Quelle cose tipo, pronto? Come per dire, Belin, che cazzo vuoi, no? Questa cosa qua lo so che è simpatica, forse non lo so, ma questo rispecchia esattamente il dialogo che sto facendo adesso, cioè non sono una persona che desidera condividere il momento della fatica di salire una spesa su per le scale. Mentre invece in questo cazzo di mondo vedo un sacco di gente che invece ti dice cosa sta mangiando, come ha dormito, che libro legge, non lo so, quasi anche quando è andata in bagno. Cioè non mi piace, non è il mio mondo. Ecco, vengo dal punk, mi piace perdere i treni e fare autoproduzioni, punto. Ecco perché questa cosa qua. Che tra l'altro d'inverno è anche una figata, perché nel senso comunque, cioè io sto molto bene in questo momento qua sotto. Nel senso, ecco, tutto qua. E invece ti volevo chiedere se ci parli un po' nello specifico di quest'ultimo lavoro, magari anche però ricollegandoti all'altro fumetto che hai pubblicato, no? Sì. E quindi un po' anche... in realtà ci sarebbero mille cose da dire, quindi forse possiamo iniziare a parlare di Torri per poi sì. Ricollegarci anche all'altro. Allora, Torri nasce da una necessità, secondo me, che è quella che dopo tanti chilometri di tour in giro per il primo fumetto, poi per altre cose, ok, ho notato, ovvero sia c'è sempre in alcuni, diciamo, aree di movimento, c'è questa forma di proselitismo, secondo me, storico, cioè nel senso, no, come la rivoluzione d'ottobre, come quella roba là, cioè c'è questa forma di indottrinamento, a mio avviso, storico, che però ti sposta l'asse del tempo in un luogo che non c'è più e quindi reinterpreti il presente, secondo me, in maniera assolutamente ipergoffa. E invece nella area da cui io provengo all'interno dell'antagonismo, che è il mondo anarchico, credo e sono assolutamente ferocemente un credente del fatto che se le facciamo crollare queste torri del potere, alla fine ci basterà intanto un crollo iniziale, perché proprio senza per forza andare a immaginare una condizione altra, ma intanto nella possibilità di avere una rifondazione posso pensare a una ricostruzione, non prima. Questa è una sottolineatura anche della lotta di classe. C'è conflitto, ci deve essere e ci è per forza. Quindi sto anche in realtà ampiamente criticando l'attivismo digitale, tutte queste cose che mi fanno ridere, non. Ma che cazzo ne hai mai visti in piazza, tra l'altro? Cioè, la domanda è sempre, la grande domanda che io mi pongo è, ma che cazzo? L'unica volta che ho visto qualche attivista digitale in piazza era a Roma a ottobre e si lamentavano perché, eccoli i soliti facinorosi che hanno rovinato la manifestazione, bastardi, c'erano i bambini. Ma cioè, proprio questa roba dei bambini, tra l'altro io non capisco questa roba dei bambini. Cioè, mettono sempre in mezzo, tipo carta da briscola, mettono in mezzo un bambino, come dire, adesso dimmi che non ho ragione, tu fai, vabbè, ho capito. capito, portavi il bambino, nel senso, se non sai stare in piazza non è un problema mio, cioè, benvenuto, no? Insomma, sai, il 68, insomma, ecco, non lo so, ecco. Quindi tu rinasci intanto da questa cosa, quindi sottolineare cos'è per me la lotta di classe. Poi all'interno, ve la faccio molto breve, ci sono due temi principali, che uno è la periferia, dove io sono nato e cresciuto, dove vivo ancora tuttora, quindi nel senso, io nasco e cresco in una periferia di una città del nord Italia e mi trasferisco in un'altra città, ok, dove però vado in periferia ancora. Continuo a vivere perennemente la vita della periferia, e la seconda è la scuola. Perché? Perché sono uno dei tanti precari di questo paese, sono 10 anni che insegno, o meglio, condivido cose, non mi piace la parola insegnamento, ho una tecnica pedagogica di tipo libertaria, significa che esalto la singolarità, non per un programma, ma per la specificità dell'attenzione rispetto a un tema rispetto a un altro, quindi non mi sento di fargli digerire una cosa che non vuole digerire quella persona. Noto invece che magari la pagina 1 non la vuole leggere, ma la 2 invece la ama. Allora spingo la persona a leggere ancora di più la pagina 2 e lascio perdere la 1. E questa cosa mi ha portato a descrivere questi due mondi, cioè la periferia e la scuola. La periferia come un luogo senza tempo, dove i palazzi sono come dei denti che mordono il cielo e a volte non te lo fanno vedere. E dall'altra parte la scuola fatta come un girone dell'inferno, dove ogni girone c'è una specificità. E ne ho raccontate tra l'altro alcune, perché in realtà è incompleto secondo me come gironi, però ci ho provato e non potevo non stamparlo. Grazie. All'interno di Torri, poi, magari proviamo a raccontare, senza poi spoilerare troppo il fumetto, ecco, però secondo me è molto figo come sia allo stesso tempo un viaggio un po' onirico, no? Perché comunque inizia come una giornata normale e poi iniziano, sì, a succedere delle cose un po' strane, sì, e a un certo punto poi diventa tutto tipo molto metafisico, non so. Sì. E però invece allo stesso tempo è un viaggio in realtà anche molto nel reale, nella vita di tutti i giorni, che poi appunto chi vive la scuola, chi vive la periferia, ma in realtà poi sono cose trasversali ovviamente, no? I vari gironi. E quindi, cioè in realtà non so qual è la domanda, però... Fate un applauso, raga, che è arrivata da Genova come me, Belinka, si è incastrata nel traffico. Una merda, tra l'altro, è andata da Milano a Genova, benvenuta comunque. Sempre la grande accoglienza ligure. Sì, infatti. No, beh, dai, a me la Liguria ha accolto abbastanza bene, devo dire, stranamente. Oh, avete sentito? No, adesso l'avete sentito, cioè nel senso, è anche registrazione tramite Radio Zam, capito? Ok, buono. No, però se magari entriamo un po' più nel dettaglio dei vari gironi. Sì, e dei allora... Vari... Cominciamo da una cosa molto semplice. Io nel fumetto entro in una scuola in particolare dove metaforicamente io sto insegnando, sono un professore all'interno di quella scuola. La scuola è la scuola Diaz di Genova, in realtà adesso non si chiama più Diaz, in realtà si chiama Sandro Pertini, però la scritta famosa che avete visto nelle immagini dell'assalto fascisti della Celere al G8 c'è ancora, quindi c'è ancora scuola A.Diaz, c'è ancora. E questa singolarità che si ritrova metaforicamente nella prima vittima dell'alternanza scuola-lavoro, che è Giuseppe, infatti si chiama Giuseppe, mi dice: al posto di salire a fare lezione, scendi con me a vedere le fondamenta di questa torre. E io accetto ed entro in questo viaggio, dove è fatto a gironi, e il primo è l'ansia. L'ansia di non uscire, l'ansia di non arrivarci, quindi tutti quei grandi pesi che una singolarità all'interno della scuola pubblica di questo paese si deve trascinare. Poi ne abbiamo altri, abbiamo l'abilismo, che è una cosa che io non riesco a capire come mai nel movimento non se ne parli così tanto, cioè, però sia quella, non so se magari lo sapete, però ve la dico per le persone che non lo sanno, proprio quella forma assolutamente discriminatoria, totale discriminatoria nelle persone che portano con sé delle diverse abilità, quindi una differenza di abilità. E questa cosa nelle scuole è pesantissima. Una singolarità giovane o anche non giovane, non è importante questo, che ha queste, che si trascina queste diverse abilità, è etizzata. Cioè è una persona appestata che va in giro con i campanelli, cioè non sto esagerando. Io questa cosa non riesco a comprenderla. Si parla di precariato, ovviamente, il precariato sì, perché il precariato, la scuola ti prepara al precariato, proprio è fatta apposta. E quindi nel precariato io gioco con un... Il precariato l'ho descritto, per esempio, l'ansia io l'ho descritta come persone che sono tutte bendate, non riescono a vedere nulla. L'abilismo è un meraviglioso pappagallino che è chiuso all'interno di una teca che in realtà non esiste, perché quello è il pregiudizio. Il precariato invece sono io che attraverso il precariato e affronto un couprier. Cioè è un gioco d'azzardo. Cioè che mi dice, tu gioca il tuo contratto di merda, io gioco il tuo licenziamento. Cose del genere. La violenza di genere, non potevo non inserirla. È drammatica questa condizione. Scusate se mi si spezza la voce, ma è drammatica. Non possiamo fermarci e lasciar perdere queste cose. Questo è un massacro. Non è possibile. E l'ho descritto come una gigantesca piovra, bruttissima, sudicia, ok? Che nel momento in cui c'è una forma di ribellione, finalmente tutto questo diventa piccolissima come un moscardino. Ma se non c'è quella forma di ribellione lì, è lì, è grossa, è enorme, i tentacoli sono lunghissimi, arrivano ovunque. E questo mi spezza il cuore. Mi spezza il cuore tantissimo. Poi tutti questi pezzi del cuore, però poi all'ultimo capitolo li rimetto insieme. L'ultimo capitolo infatti si dice, l'ho intitolato riuniamo i pezzi di noi. Come per dire, riuniamo tutti questi pezzi, vediamo dove cavoli si arriva. E si arriva a una cosa assurda, dove in realtà quella mattinata lì non è mai esistita, si ricomincia da capo, ma è tutto diverso. Perché se non c'è lotta non c'è il domani, c'è solo ora. E non puoi farci nulla. Grazie se penserete a un domani. Poi volevo... Allora, c'è un tema che forse in questo fumetto non è così tanto protagonista come in quello precedente, però è comunque, diciamo, il lavoro poi ne è intriso per tanti motivi. Sì. Ed è quello del G8. Sì. Non so se vuoi, poi appunto quando ci siamo sentiti ne abbiamo parlato un pochino. Sì. E sono uscite poi tante tematiche interessanti, però mi ha colpito molto quando hai detto che ci sono sicuramente... in generale c'è una rimozione un po' collettiva di quello che è successo, però non avevo mai pensato al fatto che se c'è una cosa che si ricorda è quel momento, quella fotografia, quell'istante, Carlo e Piazza Limonda, però tutto quello che è il prima, quindi quell'insieme di movimenti, singolarità, persone diversissime e... veramente delle cose che pensarle oggi sembrano impossibili, no? Sì, e però poi anche la repressione che è venuta dopo è un'altra cosa che è finita completamente nel dimenticatoio e che è stata un po' cancellata. Quindi non so se ci vuoi raccontare, intanto un po' dell'altro fumetto anche, però in generale di cosa significa per te magari, no, tutto questo. E so che è un po' dura come cosa. No, sì. Ma più che ampia posso anche stringerla, posso stringervela, però per me è un argomento che con la quale io non ho ancora fatto pace, nel senso che Io sono, ecco, io sì che sono uno dei tanti bambini e bambine del G8, ce l'avete uno di fronte, perché io sono un classe 1990, quindi vuol dire che al G8 io ne avevo 12. E io ero lì con la mia mamma, perché c'erano tanti bambini. Io ho giocato a pallone in Corso Castaldi il 19 luglio del 2001, perché c'erano tanti bambini e bambine con me, ok? Quindi, cioè, attenzione anche a questo piccolo pezzettino che non è tanto stato narrato, cioè, ma vabbè, basta vedere qualche fotografia, dai, quanti passeggini c'erano, quante cose festate. Ma poi sembrava un carnevale, era una roba strana, no? Io mi ricordo queste cose, ok? Che invece, no, non sono state raccontate, cioè, il G8 di Genova era il primo giorno poi specialmente, quindi parlo del 19, ok? Il 19 luglio 2001 era un enorme, gigantesco carnevale, c'era di tutto. Autonomi, anarchici, comunisti, USB, CGL, ARCI, AMPI, APSI, APSI, tutto. Io sono più comunista di te, no, ma io sono più comunista ancora più di te. Poi c'era Pax Christi, non posso dimenticare, Pax Christi, cioè i cristiani, c'era una roba incredibile, era pericolosissimo per il sistema in quel momento, era tremendamente pericoloso, perché si era creato un fronte unico contro la forma globalista del sistema e poteva veramente colpire male in quel momento. Quindi io mi ricordo delle scene, e continuerò per tutta la mia vita a ricordarmele, che nel primo fumetto lo faccio, perché se ne è narrato tanto di quello che è successo ad Alimonda, se ne è narrato tanto di quello che è successo, sì, e poi adesso, se io entro in un'aula magna di un'università, ok, come ho fatto che ti raccontavo via telefono, e dicevo, cavoli, perché poi ho fatto questa domanda che adesso vi spiego, perché una persona mi ha detto, sono del 2001, e io ho fatto, ah, minchia, che anno, no? Cioè ho fatto tipo, oh, wow, anno, yeah, insomma, hardcore. E in aula magna ho fatto, cosa è successo nel 2001 in Italia? Il silenzio più tombale. E poi le due famose risposte. Una persona alza la mano in maniera assolutamente avanguardistica e dice, le torri gemelle. Io, no, ti ho detto in Italia, cioè, nel senso, cioè, sì, non sto dicendo nel 2001, però ti ho detto Italia. Altra persona, l'euro. E io, ma come l'euro? L'euro è gennaio 2002. Cioè, no, non, cioè, non, lì sì, no, non è quello. Cioè, le persone non sapevano in assoluta maniera cosa fosse successo in Italia dal 19 al 21 di luglio del 2001. Questa è la verità. E non è colpa soltanto dei soliti noti, cioè di Feltri, quel bevitore di grappa di merda, e tutta quella gente. Non, basta continuare ad accusare completamente, sempre, no, la forma di controllo di destra, di repressione. È colpa anche dei movimenti, ok? Non aver sedimentato la memoria, ok? Per un balzo altro. Cioè, facciamoci dell'autocritica, punto. È importante farselo. Perché non è possibile, non è ragionalmente possibile che questa cosa non venga. Ma non vi dico, giuro, non vi dico di sapere nome delle strade, ok? Non vi sto dicendo questo. Dico solo che almeno l'ABC dire sì, a luglio 2001... capitato questa cosa, è morto un ragazzo, insomma, cioè proprio non c'è assolutamente questa cosa. E io venni licenziato da questa accademia per aver detto queste frasi. Io sono stato licenziato. L'accademia è quella di Brescia, se volete saperlo. Io venni licenziato. Non ho chiesto scusa, non mi pareva assolutamente di doverlo chiedere. Ho parlato con il rettorato dicendo che secondo me era un momento assolutamente di tipo banalmente cronistorico dei fatti del nostro paese, e loro mi hanno risposto, picche, non sei persona voluta. Ok, mi sta bene. Preferisco essere una persona non voluta che una persona che perde la memoria di Carlo e di tante altre persone che c'erano lì. Questa cosa è super indicativa, cioè un po' del clima, appunto come dici tu, neanche tanto della destra, cioè proprio una cosa molto più diffusa, no? Ma guarda, in realtà è diffusa, il fascismo è un cancro, cioè è un cancro di questo paese, ormai siamo in metastasi, se devo fare un parallelismo medico, questa è una metastasi di fascismo. ormai è sparso in tutti i sistemi, negli organi vari, a vari livelli, chi più nero, chi più grigio, però alla fine da quella parte si sta. E noi siamo quella, in questo momento credo che siamo quella forza gravitazionale che crea posti di autoproduzione come questo, che vale la pena difendere. Sì. C'era una cosa che hai detto quando, appunto, quando avevamo parlato, che mi aveva colpito molto, sulla sensibilità, che secondo me, cioè non, nel senso, non era, non avevo mai pensato, insomma, okay. Se vuoi ripeterla, perché non mi sì. Ricordo. Allora, io sono una persona che, come mi è successo poc'anzi, comunque mi emoziona a parlare di certe cose, ok? Perché sono fatto così, no? E quando crescevo mi è sempre stata come inculcata nella testa che tipo la parola sensibilità è una parola da deboli, da persone deboli, ok? Cioè, ah, ma Dio, una persona sensibile, poverino, poverina, cioè tutte queste frasi comunque molto, molto paternali, no? Come di... E invece io voglio strappare questa parola da questo tipo di concetto e riportarlo verso di noi e di me. Cioè essere sensibili significa osservare il mondo intorno e percepirne ciò che sta capitando. E questa cosa è forse tra le cose più militanti che si possa fare in questo mondo nel 2024. Fatto di velocità, social, tutti in giro, DDL fatti a caso, governi che cambiano, gente nel favore delle tenebre perché sposta miliardi di euro per un ponte come quello sullo stretto di Messina, non serve un cazzo di niente, che è assolutamente una stronzata incredibile, sempre se ce la faranno mai a farlo. E io attraverso questo momento, con quella sensibilità, cioè ci voglio essere. E secondo me ci sei se hai sensibilità, se non hai sensibilità non ci sei. E questo per stringere il mio dialogo. Tutto qua. Io adesso magari lascerei un po' spazio se c'è qualche domanda dal pubblico. Ma cose a caso, eh? Cioè, sì, anche cioè... tipo. Cioè, non per forza cose. Esatto. Vai. Sapevo. Io ho un particolare documento di però non sono nulla quindi assolutamente. Però mi ha colpito quando dicevi di Giuseppe, che ti accompagna in questo percorso, l'hai quindi associato un po' al concetto di Virgilio, come se fosse una sorta di, cioè, perché ricordo ovviamente un po' il concetto dell'inferno dantesco, no? Cioè è voluto, è soltanto uno spunto per, è l'idea di una guida che è oltre al concetto di umano, che semplicemente ti apre gli occhi in quella che è la realtà, cioè mi piacerebbe approfondire un po' di più la figura di questo. Ok, sì, sono quelle morti che non frega più a nessuno, nel senso che non, cioè, sono interessate solo a Repubblica per farci il pezzo, per farci il titolo quel giorno e non alle 18:30, per fare anche un po' di mezzo catastrofismo e barra sfortuna, cioè delle cose, vabbè, che veramente non voglio speccare l'ossigeno di questo pianeta per replicarle, sono veramente stufo, se volete andatevela a leggere, intanto sono tutte pubbliche quindi non c'è bisogno. No, non è tanto un Virgilio, perché credo che comunque quello, ok, l'ossimoro che hai fatto ci può stare, certo, perché c'è un girone, si scende, sono fatto a strati, in realtà no, non è un Virgilio, insomma Virgilio è una figura assolutamente divinica all'interno della Divina Commedia e quindi non può in alcuna maniera rappresentare, a mio avviso, la figura di una singolarità come Giuseppe, e benché meno Dante Alighieri, che comunque era una persona, almeno per chi conosce la sua storia, abbastanza strana, tra l'altro era un guerrafondaio, è andato in guerra Dante Alighieri, ha staccato un sacco di teste, tra l'altro, quindi no, non è una persona che mi aggrada particolarmente. e poi è anche diventato un baluardo della destra, quindi direi che, vabbè sì, è Made in Italy, cazzo, Dante Alighieri, cazzo, beh, lì ragazzi. Al netto del fatto che tra l'altro vorrei dire una cosa e poi vi ritorno sul fumetto, che Dante Alighieri quando pubblicò la Divina Commedia, era se leggete i dati storici, non lo dice Massi, ma lo dice semplicemente anche il professore Barbero, era talmente preso per il culo per come scriveva di merda, ok, che in realtà Divina Commedia divenne famosa molti anni più tardi, ok, quindi tanto per cominciare a dire l'abicidario per i nostri non amici della Meloni. Ora, perché quindi scendere? Perché in realtà è una forma contraria al verticalismo. Cioè la scena, il trigger che parte è al posto di salire, cioè proprio scritto, al posto di salire a fare lezione, scendi con me che ti faccio vedere dove stai. Quindi non è tanto un Dante Alighieri, è più che altro una persona, una singolarità che mi sta invitando a dire scendi, guarda sotto, non farti, torna sensibile, non farti più passare le cose sopra. E accetto e parte questa cosa mezza folle, metaforica, incompleta, ribadisco, però da qualche parte volevo cominciare, ecco. Beh, se no ti chiedo altre cose io, tanto di domande. Ok, vai. Cioè, o qualcuno se vuole intervenire. Esatto, sì, infatti. E, no, era interessante anche tutta la questione degli animali. Al di là di... perché so che hai avuto... No, ma appunto per me, vabbè, è molto divertente. E... No, però è interessante perché ci sono un po' di personaggi, esatto, di animali atti. Me l'ero preparata questa. In realtà non ce l'avevamo detta questa cosa, però allora, parto? Vado? Mi hai triggerato? Vai, vado. Sì. Allora, compagni e compagni, dovete sapere che una persona che fa l'illustratore o l'illustratrice, insomma, che disegna e fa l'arte, si diverte ad utilizzare una cosa chiamata figura retorica. È una cosa normalissima, esiste tipo nella notte dei tempi. Quindi se io volevo disegnare una divinità, per esempio, ancestrale all'interno di una grotta prima del Paleolitico, la trasformavo, non lo so, in uno gnu, in un mammut, insomma, in tante cose, giusto? Quindi è una cosa primordiale la forma retorica. In questo momento invece mi trovo nella condizione che ogni volta che disegno un animale mi arrivano almeno 10-15 messaggi di odio feroce da parte di una specificità all'interno del movimento di questo paese che mi accusa tipo perché hai disegnato i ratti sono persone intelligenti, tu fai schifo al cazzo. Allora, scusate, cioè, ma ora, io a questa persona io ci ho anche provato, cioè, allora, io giuro, ok? Ero a casa, mi sono messo lì e ho detto, no, adesso io ci devo provare, devo raccontare, ci devo provare a dire a questa persona che qualcosa non quadra. E gli ho fatto la filippica, ho partito. Guarda che io ho disegnato i fascisti come ratti perché nel 1969 nasce un loro quotidiano che si chiama La Voce delle Fogne, il logo era un ratto che aveva un casco con la croce celtica e il manganello. Questa è una storia, cioè è la verità, cioè poi dopo, ok. Quindi non è che ho disegnato il ratto perché devo offendere un ratto, un topo, l'ho fatto perché loro hanno preso quell'animale come riferimento. Non c'è stato verso di conversazione. Non c'è stato verso. Io ero assolutamente uno specista di merda, facevo schifo tantissimo, ero un essere immondo, e io andrò avanti a disegnare gatti e tutto il resto. Io non ce la faccio, cioè è una forma retorica normalissima, dannazione. Cioè, non probabilmente sono ignorante io, capito? Cioè, non ho capito, adesso non so, però vi prego, dai, cioè, madonne. Mia, è una vignetta, cioè, tranqua. Una vignetta, c'è cioè, un ratto. C'era stata una manifestazione fascista nella città di Brescia, che c'erano 300 fascisti che marciavano con la bandiera italiana, per cercare di riportare l'attenzione alla bolla del movimento, ho detto, oh, che attenzione, perché siamo infestati dal fascismo. Basta, ho fatto questo, ho fatto un sacco di topolini neri con la bandiera italiana del cazzo, ok? L'ho detto, occhio, no, come per dire attenzione. Trac, merda, bastardo, i topi sono bellissimi. Io. Ma certo che sono belli, ma non sto dicendo che sono brutti, cioè, ma è una figura retorica, cioè... Cioè, so che questo fumetto qua è un disastro, perché c'è il pappagallino, e c'è sta piovra, e c'è sta... Cioè, sarà un disastro, vabbè, oh, tutto a posto, cioè, sopravviverò. Cioè, Cribbio. Cosa dovevo fare? Cioè, tipo, violenza di genere, cosa dovevo fare? Come deve... Cioè, ma scusa, provate anche a mettermi un attimino nei panni di uno scemo come me. Cioè, devo descrivere questa cosa, no? Come fai? E non è facile, eh? Almeno per me è stato un casino. Cioè, come... Cos'è? Prendi una figura X e... No, allora, esci! Cioè, estiri via la parte umanoide, ok? Per passare verso un concetto, ok? In figura retorica, ove il polpo non è esattamente il mollusco più, diciamo, asciutto della vita. Giusto? Possiamo prenderlo come atto scientifico? Cioè, è una fatica. Cioè, il pappagallino no, semplicemente perché adoro i pappagallini. Perché sono a Genova, sono circondato da pappagalli, basta. Cioè, quello è per quello. C'è anche il ragnetto, che è tipo la tua... Allora, il ragnetto in realtà è la figura cinica della mia mente, in realtà è una singolarità che esiste davvero. Infatti a volte io lo chiamo per nome, Teo, perché si chiama Matteo, esiste davvero. E è una persona che con me fece tante cose meravigliose all'interno dei circoli anarchici, all'interno delle manifestazioni. Purtroppo fu uno dei tanti tagliolati nell'operazione Tagliola del 2008, e uno sono io. Lui è un secondo, nel primo fumetto infatti ne parlo tantissimo di questa operazione, dove ci fu un grande smantellamento, una grande repressione, e qualcuno la sa? No, cioè venne silenziata, cioè non, fu un disastro, insomma io avevo 18 anni, ero uno scemo, ero piccolino, no? E conta solo il primo giorno quando inizi e il giorno quando finisci, tutto quello in mezzo è meglio non ricordarsi. Va bene, io se non ci sono altre domande, altri anche non domande, anche commenti, cose. Esatto. Dai, ancora una, poi partiamo tipo con birrette, c'è già Norberto che sta andando verso il bancone, che vi fa dire. Una poi. Vai, spara. Io volevo chiederti come si trova una persona anarchica libertaria all'interno di una istituzione pubblica come può essere la scuola, veduta come neutra. Alla fine, come hai detto te, cioè, si parla per il precariato, ci porta. E qual è la tua, se ce l'hai, questo forse non c'entra tanto col fumetto, ma ha dato la mia attenzione quando l'hai detto, come ti rapporti, qual è il tuo modo per trovarti bene all'interno e fare forse una differenza, o se c'hai qualche modo di portare avanti anche la militanza all'interno? Allora, come mi trovo all'interno di un'istituzione? No. Allora, da una parte, se non ci fosse tipo che c'è una strage continua e costante, sarebbe un parco giochi. Nel senso che a me fanno ridere loro, mi fanno sorridere, sono dei pagliacci, sono delle pagliacce. Non... Il problema è che però il problema è che però fanno cose dannosissime, capito? Quindi come mi trovo? Malissimo, è ovvio la risposta. Se non fosse che questi qua non creano questo disastro costante, per me sarebbe veramente un circo, probabilmente mi divertirei un casino, probabilmente, no? E prenderei addirittura in giro, cioè... Perché poi l'anarchismo, secondo me, è molto bullo. Ma bullo non nel senso bullismo, ma... forse ho sbagliato parole, più... è allegorico, comunque, cioè, ti prendi in giro, no? Capito? Trova anche delle forme, no? Anche in pratica, no? Però purtroppo, insomma, non è proprio il massimo della condizione, ahimè. Ma guarda, sulla seconda domanda non ti saprei per forza di cosa rispondere. Penso che ogni persona metta all'interno del movimento un piccolo granello di sabbia per fare piano piano rallentare fin tanto che si spaccano quelli che sono gli ingranaggi di una cosa che noi chiamiamo capitalismo, che è una macchina estremamente complessa. E come faccio all'interno delle scuole a cercare di propagare qualcosa di buono? Ve ne racconto una, straveloce, esperienza strarecente e diretta. Vado a fare una data di presentazione nella città di Bozen, anche detto Bolzano, posto di un nazismo che non mi ricordavo neanche i tempi, Nel senso che proprio il nazismo lì è molto aperto, cioè molto, cioè non c'è, non è fascismo, è proprio nazismo, perché poi c'è un problema etnico fra, no? Fra il concetto italiano e tedesco, quindi è una condizione molto strana. Io la conoscevo, tra virgolette, adesso la sto vedendo, è un disastro, l'ho vista dal vivo. Vabbè, ve la faccio breve, vado in una scuola superiore perché il compagno che mi ospitava a casa mi fa, guarda, io sono un cuoco di una scuola superiore e il sabato si mangia tutti insieme. Che vuoi fare? O giri per Bolzano da solo, oppure vieni con me, gli faccio, cazzo, vengo con te, mia, cazzo me ne frega, cioè, andiamo a mangiare con i raga a scuola, è bella storia, cioè, piatto de pa- ha fatto pasta e fagioli, una roba del genere, detto, vai, vai, andiamo, andiamo. Andiamo, questo cretino prende i raga e fa, lui è un fumettista, disastro, perché tutti i raga vanno, cazzo, fai fumetti tipo Spider-Man? No, non come Spider-Man. No, allora fai i manga? No, nemmeno quello. E allora cosa fai? Boh, aspetta, ti spiego. E non è fatto. Però è stato molto bello, perché, e te la chiudo, ed è stata questo. Mentre vedevo che stava creando il capannello, capito? No, la campana, guardo lui che stava tirando giù la pasta e fagioli e gli faccio, apri il bagagliaio, cazzo, veloce, apri il bagagliaio. Fa, che cazzo, apri il bagagliaio, Dio, me lo apri. Apre, sono andato, ho preso lo zaino, ho preso tutti i fumetti che avevo, ne avevo una 7-8 ancora che erano rimasti dalla presentazione della sera prima, li ho regalati a tutti i raga, tutti. Ho detto, to, tieni, tieni, tieni, tieni, perché se fra quei 7-8 una persona sola, una, prende quella cosa chiamata sensibilità, cazzo, abbiamo fatto la rivoluzione. Yes! Una, ne basta una. Come diceva il mio carissimo amico, che non c'è più e mi manca tantissimo, è da una goccia che parte la tempesta da nazione. È da una goccia. Basta una, cazzo. Proviamoci tutti nel piccolissimo. Grazie se lo farete. Bene. Grazie. Grazie mille. Grazie, direi che grazie a Zam. Fate un applauso ai ragazzi di Zam, davvero che sono qua da un sacco di tempo. Fate un applauso anche a Zona Secure. Un bel applauso, cazzo. Che cazzo siete? Siete della DC, porco Dio. Dai, cazzo, un bel applauso, forza. Dannazione. E qua si trova tutto, lì ci sta il bar, la stessa mangiare, sto facendo tipo già tipo lì c'è da mangiare, lì c'è da bere, qua ci stanno i manifesti, ci sono anche un sacco di banchini strafighi, ci sono anche tipo un botto di roba, andate a vedere tutte le storie che sono robe bellissime, cazzo, di raga e tutto, cioè andate a vederli, mangiate un sacco, poi si balla e ho smesso di parlare e ho fatto una figura di merda. Grazie a tutti, a tutti e a tutti, evviva, ciao.